Buongiorno Palestina. Anche in questo mercoledì torrido parliamo di Palestina, come tutti i mercoledì dalle 19 alle 19.30 da Radio Wombat. Oggi abbiamo in studio Marisa che ci parlerà. Marisa, di che cosa ci parli? Della politica di espropriazione della terra in Palestina. Prima vorrei dire due cose. Una è il bollettino per quanto riguarda la grande marcia del ritorno. Situazioni tristi. 81 feriti a Gaza durante la grande marcia del ritorno, che è una marcia pacifica e disarmata, contro cui gli israeliani sparano abitualmente, sono dei cecchini israeliani che sparano, dispiegati dall'esercito, e sparano spesso usando proiettili cosiddette a farfalla o dum dum. Sono vietate dalle convenzioni internazionali, in quanto quando colpiscono esplodono. Quindi alcuni di questi 81 feriti verranno probabilmente amputati agli arti inferiori, perché agli arti inferiori soprattutto che i cecchini sparano. L'altra cosa che volevo dire prima di dare la parola a Marina è, volevo segnalare un libro si chiamava Palestina, è stato presentato una decina di giorni fa alla Libreria dei Lettori in via della Pergola a Firenze, è stato presentato anche a Siena. L'autrice è una giornalista ed è, dunque, il sottotitolo del Si chiamava Palestina è Storia di un popolo dalla Nakba ad oggi, parla della situazione palestinese. Però, malgrado il sottotitolo dica dalla Nakba ad oggi, ci sono anche tutte le premesse, cioè quello che ha portato poi alla costituzione dello Stato di Israele e all'inizio della pulizia etnica iniziata nel 1948 e proseguita anche adesso. Il libro si legge molto bene, cioè nel senso, è un libro molto completo perché traccia tutto il percorso, tutto quello che è avvenuto, le diverse guerre, i diversi atteggiamenti, le diverse parti politiche, ma si legge molto bene perché è evidentemente scritto da una giornalista, cioè non da uno storico che in generale riempie un libro di citazioni, di note, ma un giornalista che scrive una cosa fatta per la lettura, una lettura di divulgazione, ecco. Quindi è un libro decisamente consigliabile per l'estate, se volete, ed edito da Out Out. Consigliabile per chi volesse fare delle vacanze intelligenti. Ecco, adesso la parola a Marisa. Sì, volevo appunto parlare della politica di esplorazione della terra, perché è evidente che per una forza di occupazione l'appropriazione della terra sia il nodo cruciale, essenziale direi, per radicarsi su di un territorio. E quindi vorrei qui subito iniziare dalla questione centrale, la politica appunto di espropriazione della terra da parte di Israele attraverso l'uso del diritto, delle norme, delle leggi e legislazioni che sono state manipolate per raggiungere lo scopo di sottrarre sempre più terra ai palestinesi. E tralasciando per il momento l'aggressione violenta fatta di massacri, occupazione di villaggi con conseguente distruzione degli stessi fino alla Nakba del 48, cioè l'allontanamento e la fuga di 800.000 palestinesi e la distruzione di ben 531 villaggi e 11 centri urbani. Prima di parlare dei vari sistemi con il quale Israele si è preso, se non rubato, la terra, vorrei ricordare qui cosa stabiliscono le norme internazionali sul tema che si tratta oggi. Così si riuscirà a capire meglio perché Israele si continua a dire che viola queste convenzioni. Allora, la Convenzione di Ginevra dice che la potenza occupante non potrà procedere alla deportazione o al trasferimento di una parte della sua propria popolazione civile nel territorio da essa occupata. La Convenzione dell'AIA del 1907 dice che la forza occupante è obbligata a proteggere le proprietà dei residenti dell'area occupata e non è autorizzata a distruggerle o espropriarle. Nonostante ciò, può in maniera temporanea prendere possesso di terreni privati e di edifici appartenenti ai residenti dell'area occupata per sistemarsi con le sue forze militari o le unità amministrative. Ma tale confisca, ripete, è di natura temporanea e di conseguenza la forza occupante non acquista diritti di proprietà sulle terre e sugli edifici requisiti e non è autorizzata a venderli ad altri ed è obbligata, fra l'altro, a pagare un compenso ai proprietari per l'utilizzo dei loro beni. Vediamo invece come è avvenuta l'appropriazione della Palestina da parte di Israele forza occupante. Allora, un primo sistema... Se mi consenti un attimo, volevo... cioè, perché ce l'ho sempre sotto gli occhi... questa convenzione queste due convenzioni di cui ha parlato sembrano fatte apposta per contraddire e per ostacolare quello che è l'impostazione che fu data fin dall'inizio dal padre del sionismo, cioè da Theodor Herzl. E Theodor Herzl così si esprimeva, disse, ma perché ho questa citazione proprio sotto gli occhi, la voglio leggere, dice: dovremo cercare di ridurre in povertà la popolazione palestinese sospingendola oltre le nostre frontiere. L'espulsione, lo spossessamento e l'espulsione dovranno venire gestiti con discrezione ed attenzione. Ecco, adesso tu ci parlerai di questa discrezione ed attenzione con cui viene spossessata la popolazione palestinese. Sì, la terra di Palestina. Allora, un primo sistema è stato quello della confisca per esigenze militari. Questo sistema fu introdotto e largamente utilizzato fin dall'inizio dell'occupazione, ma ebbe una fermata d'arresto nel 79-80 perché scoppiò il caso di Elon Moré, che era un insediamento fondato nel 73 dai nazional religiosi di Gush e Munin in Cisgiordania. E, dal momento che nel 79 alla Corte Suprema israeliana fu presentata da parte dei residenti di un villaggio vicino a questo insediamento una petizione contro la confisca della terra, e visto che dalle varie dichiarazioni, ma soprattutto fra tutte quelle del capo di Stato Maggiore di allora, un certo Chaim Bar-Lev, che affermò che l'insediamento non contribuiva alla sicurezza di Israele, la Corte Suprema si trovò costretta a ordinare l'evacuazione dell'insediamento e la restituzione della terra confiscata ai proprietari palestinesi. Ecco, questa decisione segnò uno spartiacque per gli strumenti legali per Israele utilizzati da quel momento in poi. Diciamo che però la confisca per esigenze militari è stata reintrodotta e largamente usata dalla firma degli accordi di Oslo. Per che cosa? Per la costruzione di un esteso sistema di bypass road. Le bypass road non sono altro che nuove strade ad esclusivo uso dell'esercito e dei coloni, quindi interdette ai palestinesi. Un secondo sistema è quello di dichiarare la terra terra di Stato. E questo sistema fa riferimento, quando appunto parlavo della reinterpretazione e manipolazione delle leggi, prende spunto da un articolo del regolamento dell'AIA in cui si dice che la forza occupante deve rispettare le leggi vigenti nel territorio prima dell'occupazione. E qual era la legge vigente nel territorio palestinese prima dell'occupazione? Era la legge ottomana sulla terra del 1858. E in base a questa legge si evidenziano ed esistono varie tipologie di terra. Le menziono così poi si capirà nel proseguo del discorso. Allora abbiamo terre completamente private, mulk. Poi terre destinate ad attività religiose o culturali e che quindi sono protette dalla confisca secondo le leggi dell'Islam. Poi abbiamo le terre miri, così chiamate, adatte ad essere coltivate e di cui si acquisisce il diritto di proprietà mantenendo lavorando la terra per 10 anni consecutivi. Se però un proprietario non coltiva la terra per 3 anni consecutivi per ragioni diverse da quelle che comunque la legge prevede, cioè ad esempio la terra viene tenuta a Maggese per ragioni agricole o il proprietario ad esempio è arruolato nell'esercito, allora la terra, appunto, se non è coltivata per 3 anni consecutivi, è considerata un altro tipo di terra, cioè una terra di cui l'autorità può impossessarsi o trasferire i diritti a un'altra persona. Ora, c'è da ricordare che la legge ottomana aveva e poneva questo fondamento perché mirava a creare un incentivo perché la terra fosse coltivata tanto più possibile per ottenere sia prodotti agricoli, ma anche perché questi prodotti poi venivano tassati e chiaramente generavano entrate finanziarie. Quindi tu ci stai parlando adesso di una legge che esisteva già sotto l'impero ottomano? Sì, sì, la legge ottomana quindi, sulla terra. Ecco, perché poi c'è la famosa legge sulle proprietà non presidiate, quella del 1948, quella viene dopo. Dopo ce ne parli dopo. Sì. E poi c'era un'altra tipologia di terra, Matruca, che era destinata ad uso pubblico, inteso come pubblico, cioè per i residenti di un certo villaggio, cioè nel caso di pascoli, di cimiteri o nel caso di strade da utilizzo degli abitanti del villaggio. Ecco, volevo fare una chiosa, nel senso che ho trovato che al di là di queste tipologie, sebbene la legge sia ottomana che giordana e anche quella britannica non la riconoscessero, in Palestina, in Cisgiordania, esiste da sempre, per tradizione, un'ulteriore tipologia di terra chiamato Mushaha, che è una terra di proprietà collettiva dei residenti di ogni villaggio. Ed è una terra, un appezzamento di terra di cui una famiglia è responsabile e per un certo periodo, e dopo di che la terra viene distribuita a rotazione. Ecco perché ho voluto fare questa precisazione, perché per preservare questo sistema di proprietà collettiva, ma anche per minimizzare le tassazioni che dovevano andare all'impero ottomano e non ultimo motivo per non essere arruolati nell'esercito turco, molta terra non era stata registrata dai palestinesi come richiedeva la legge ottomana. Ed è questo il motivo che ha permesso e reso possibile la dichiarazione di centinaia di dunam. Dunam è la loro, diciamo, misura, un dunam corrisponde a 1000 metri quadri. E quindi questo ha permesso, dicevo appunto, la dichiarazione di questa terra come terra di Stato. In più c'è da ricordare un'altra cosa, che all'inizio dell'occupazione israeliana nel 67 fu emesso un ordine militare che bloccò la registrazione da parte dei residenti in Palestina, in Cisgiordania, della loro terra. E un altro ordine autorizzava un delegato dell'esercito israeliano a prendere possesso delle proprietà appartenenti a uno stato nemico e di gestirle. Allora cosa hanno fatto? Hanno preso anche quindi le terre registrate a nome del governo giordano. Ok? E per finire, bisogna dirlo, allo stesso tempo un altro ordine militare invece istituiva uno speciale registro della proprietà della terra, con il quale invece si dava la possibilità al custode, che è un'autorità amministrativa israeliana, di registrare le transazioni della terra e quindi di permettere il trasferimento e l'utilizzo della terra che era stata sequestrata o perché registrata sotto il governo appunto giordano o perché non risultava un diritto di proprietà. Ecco, forse è bene ricordare un po' come stavano le cose dal punto di vista delle occupazioni, perché dunque dopo con il 1948 si forma lo Stato di Israele, il resto della Palestina, che non è Stato di Israele, è occupato dall'esercito giordano e vige la legge giordana in Palestina fino al 1967. Con la guerra del 67 Israele occupa anche tutto il resto della Palestina, che è la situazione attuale. Ecco, quindi, vabbè, andiamo avanti. Sì, e quindi Israele cosa, ha fatto un lavoro molto dettagliato e minuzioso, cioè ha effettuato la schedatura dei villaggi palestinesi, ma questo processo è iniziato già dal 1937 ed è terminato 10 anni dopo, continuato anche nel 1979 con l'utilizzo di fotografie aeree. Insomma, è venuto fuori un archivio dal quale risulta che il 26% della Cisgiordania occupata contiene al suo interno le terre adatte ad essere coltivate, ma che non sono state acquisite come diritto di proprietà perché sono state coltivate in meno di 10 anni. Poi altre terre incolte per 3 anni e quindi divenute disponibili a prendere il possesso, e poi ci sono le terre morte, cioè quelle troppo lontane dai villaggi. E ripeto, è il 26% della terra in Cisgiordania. Un'altra chiosa che mi sembra interessante, come è avvenuta questa schedatura dei villaggi? Ecco, la schedatura permise un archivio completo in cui furono registrati precisi dettagli sulla collocazione di ogni villaggio, le vie d'accesso, la qualità della terra, le sorgenti d'acqua, le principali fonti di reddito, pensa, la composizione sociopolitica, le affiliazioni religiose, i nomi dei capi villaggio, l'età degli uomini. E poi, ascolta Claudio, una categoria importante era l'indice di ostilità, stabilito dal livello di partecipazione del villaggio alla grande rivolta, quella del 36-39, no? E queste informazioni furono preziose per l'esercito israeliano, che nel 48, con queste informazioni, alimentò le peggiori atrocità e rappresaglie nei villaggi che avevano un alto indice, appunto, di ostilità. E questa mappatura, questa schedatura dei villaggi è continuata e riguardato anche le descrizioni dettagliate sull'agricoltura, il numero degli alberi delle piantagioni, le qualità di ogni frutteto e persino di ogni singolo albero, della quantità di terra per famiglia, per arrivare poi al numero di automobili, proprietà dei negozi, il nome degli artigiani, i mestieri che facevano. E verso la fine del mandato britannico, perché ti dicevo questa mappatura risale al 37, si arrivò anche a andare a fare un bilancio sulla quantità e qualità delle armi, che normalmente erano poi antiquate o inesistenti, a disposizione dei singoli abitanti dei villaggi. Quindi, tutto questo, ha permesso l'accaparrazione della terra, dichiarandolo terra di Stato. E anche permesso di fare di sviluppare di svolgere la guerra nel modo il più efficace possibile da parte israeliana. Cioè, da parte israeliana la preparazione della guerra è stata un fatto permanente in tutte le guerre. Cioè, c'è una frase di Dayan, che fu ministro della guerra, che dobbiamo vivere con la spada. Cioè, l'aggressione deve essere qualcosa di sistematico da parte nostra. E tutte queste informazioni, questa raccolta di informazioni e di provvedimenti legislativi sono tutti volti ad aggredire e ad accaparrarsi. Ma Volevo dire una cosa, perché se ne parlava ieri sera, che era questa. Da parte, recentemente è stata fatta una mappatura, invece, da parte palestinese di quelli che erano i villaggi che sono stati distrutti da Israele, con tutta l'elencazione delle vestigia della civiltà palestinese, perché gli israeliani hanno distrutto, hanno cancellato, hanno. Riscritto le Non, non, cartine sì, geografiche. hanno, sì, non solamente hanno cambiato i nomi, ma hanno spianato case, frutteti, hanno alterato profondamente il paesaggio anche. Ecco, c'è questa mappatura di un centinaia di villaggi palestinesi raccontando di ciascuno la propria storia. Questa è disponibile, adesso non ricordo bene dove, però è una memoria. Che è stata compilata recentemente. E senti quest'altro sistema, questo è veramente ridicolo. dichiarazione di proprietà abbandonata. Cosa si intende per proprietà abbandonata? Allora, il proprietà... questa è la legge del 48 sulla proprietà abbandonata? Sì, ho capito. Si reputa abbandonata quella terra il cui proprietario o possessore abbia lasciato, c'è scritto, cioè non scappato per paura, per le minacce o addirittura è stato ammazzato nel suo campo, prima, durante e dopo il 67, l'hanno resa ancora più attuale, oltre quella del 48 di cui dicevi. Dice, per cui, visto che il proprietario o il possessore ha lasciato questa terra, è sconosciuto e quindi è una proprietà abbandonata. Cioè, questo veramente la dice lunga sulla rinarrazione di quello che è successo, perché i palestinesi, devi sapere, hanno un valore fondante come valore del loro popolo, che si chiama Sumud, ed è l'attaccamento alla propria terra, che vale come un valore radicato nelle coscienze di ognuno. Figuriamoci se loro hanno lasciato volontariamente, come si legge anche nei libri scolastici israeliani. Continuo dicendo, sì, però la proprietà abbandonata viene data in mano al custode, che è tenuto a proteggere questa proprietà e in attesa del ritorno del proprietario, e nel caso del suo ritorno dovrà restituire la proprietà e i frutti. Allora, vogliamo ricordare ancora di nuovo qui il fatto che Israele da sempre si è opposto al ritorno dei rifugiati, che è un annoso problema, no? E che quindi con questo ha disatteso tutte le risoluzioni dell'ONU, quella, per dirne una, la prima, quella del 48, la 194? Racconto un fatto personale e poi magari facciamo un intervallo musicale. Dunque, volevo raccontare questo. Io quando ero in terza media avevo un professore che era un insegnante che era ebreo, e, bravo, ci portava nei luoghi della resistenza, cosa. E a un certo punto lui andò in Israele e tornò con una sposa israeliana. E poi andavamo a casa sua, conoscemmo la moglie, la sua famiglia, cosa. E mi ricordo che proprio io gli chiesi, prima che andassero gli ebrei in Palestina, chi è che abitava lì? E lui mi rispose, ma il territorio era disabitato dagli arabi. E in effetti questo era vero, perché in effetti il territorio, gli arabi non c'erano più. Cioè i palestinesi, perché? Perché li avevano cacciati via. Cacciati via, subendo massacri, rappresaglie, distruzioni, incendi di villaggi. Quindi in qualche maniera aveva ragione, ma quale ragione? Allora facciamo un po' di musica. Ascolta. E poi abbiamo un quarto sistema, che è l'espropriazione della terra per bisogni pubblici. sempre per mezzo di ordini militari, Israele ha emendato la legge giordana sull'espropriazione della terra per ragioni appunto pubbliche, facendo che cosa? Abolendo l'obbligo di pubblicare le decisioni e di inviarle ai proprietari, per cui, come tu sai, molti proprietari di terra, ma anche di immobili, si sono trovati davanti bulldozer pronti ad abbattere la casa o invadere il terreno, e poi dichiarando la maggior parte delle espropriazioni per casi urgenti. E alla domanda cosa si intende per bene pubblico, è ben diverso da quello che si intende noi. Non è un bene per loro collettivo sentito da, in qualità di cittadino. La risposta è stata: bisogno pubblico è un bisogno che si definisce pubblico, punto. Allora, questo sistema di espropriazione per bisogni pubblici in casi urgenti, anche questo è stato molto usato negli ultimi anni per il controllo della terra, cioè per la costruzione di quello che dicevo prima, dei bypass road, che sono un'estesa, veramente estesa rete di strade a uso degli insediamenti che collegano tra loro gli insediamenti Israele. E la maggior parte dei casi accercano volutamente le comunità palestinesi. Ecco, questo sistema è stato largamente usato per appropriarsi della terra nella zona est di Gerusalemme per la costruzione, pensa, di ben 12 insediamenti, quelli che adesso vengono chiamati quartieri della città, no? Ed è stato possibile anche qui manipolando, reinterpretando un ordine mandatario, pensa, del 43, che poi era stato assorbito, appunto è stato assorbito dalla legislazione israeliana. Allora, sembra che non sia facile fare un calcolo preciso, però la maggior parte delle terre espropriate, e questa è una nota di Beth Salem, che sai che questo centro studi, no, per la difesa dei diritti umani in Cisgiordania e in Palestina, la maggior parte delle terre espropriate erano indubbiamente proprietà private dei palestinesi e solo una piccola parte poteva essere dichiarata terra di Stato o destinata a attività religiose o in possesso degli ebrei prima del 48, perché c'è stato degli acquisti, insomma, diciamo, regolare di terre già dai primi del Novecento. Ultimo sistema è quello dell'acquisto sul libero mercato. Questo sistema veniva prima gestito da un unico organismo, che era il Fondo Nazionale Ebraico, che operava attraverso una compagnia creata allo scopo. E dopo invece il governo, per accelerare chiaramente gli insediamenti, consentì l'acquisto di terra e l'insediamento quindi in Cisgiordania, incluse le aree dove la terra non poteva essere dichiarata neppure terra di Stato, perché registrata col nome del proprietario, secondo poi i provvedimenti della legge ottomana, e sempre con ordini militari adottò quindi le leggi a tutela degli interessi degli imprenditori israeliani. E diciamo anche che, dato che i palestinesi che eventualmente avessero venduto la terra israeliani venivano considerati dei traditori, un ordine estese la possibilità di aumentare il tempo di registrazione da 5 anni, come prevede la legge ottomana, a 15 anni. Facendo cosa quindi in tal modo? Facendo sì che le trattative da terra potevano rimandare la registrazione per un lungo periodo, evitando quindi di svelare l'identità di chi poteva aver venduto la terra. Ecco, questo sistema dell'acquisto di libero mercato fu bloccato, siamo negli anni 80, perché? Perché c'è da dire che fu causa di truffe, contraffazioni, atti criminali, nel senso che il mercato registrò un aumento della domanda di terra in Cisgiordania e quindi ci fu un rialzo abbastanza vertiginoso dei prezzi, che diede un forte incentivo ai vari mediatori israeliani. E capitarono delle situazioni che appunto portarono poi al blocco di questo sistema, perché in molti casi i palestinesi appresero che la loro terra era stata venduta in modo disonesto agli israeliani solo quando i mezzi erano già pronti ad entrare nel terreno. E d'altra parte molti israeliani, attratti ad acquistare appezzamenti di terra in Cisgiordania, scoprirono poi che avevano pagato per un pezzo di carta e privo di valore. E quindi intervenne il governo appunto israeliano, investigò su centinaia di casi di trattative fraudolente, e quindi questo sistema non, diciamo, non esiste più in questa forma, e tanto ci sono quelli che ho detto prima che già fanno man bassa della terra in Cisgiordania. Quindi ci sono due, ci sono l'impossessamento della terra è avvenuto con strumenti e metodi leggermente diversi nei due casi, cioè che si trovasse all'interno dello Stato di Israele, possedimenti palestinesi all'interno dello Stato di Israele, oppure possedimenti palestinesi al di fuori dello Stato di Israele, cioè nella West Bank, cioè nella Cisgiordania occupata. In questa seconda, cioè nella Palestina occupata, il metodo è sistematicamente, mi pare, quello dell'occupazione militare, cioè sicurezza, quindi c'è bisogno di stabilire un campo militare. Dopo un po' questo campo militare viene tolto e ci vanno dei coloni che cominciano con qualche casetta, con qualche roulotte. Poi dopo un po' cominciano a costruire qualcosa di più grosso e quella diventa una colonia. C'è tutta la Valle del Giordano, che quella è zona considerata zona militare e che credo ancora in parte di proprietà palestinese oppure di proprietà pubblica, è comunque zona in cui i palestinesi non hanno scarsamente la possibilità di vivere, e infatti la popolazione palestinese sta drasticamente diminuendo in quella zona. Se posso dire un'ultima cosa, quello che più mi indigna a me è il fatto di coprire con l'abito del diritto, manipolato, reinterpretato, una cosa molto, molto semplice: la caparazione violenta, massiccia, con l'unico scopo di espellere una popolazione e ottenere tutto il campo possibile aperto a solo il popolo israeliano, ebreo fra l'altro. Ora qui si apre un'altra questione che forse tratteremo in seguito nel concetto di Stato-Nazione. Comunque, ecco, quindi, questo mi indigna, sì, perché utilizzare il diritto a livello unilaterale in questo modo è disonestà. E quindi intellettuale, fra l'altro. Lo spossessamento e l'espulsione gestiti con discrezione ed attenzione, come diceva Theodor Herzl. Allora, anche per stasera abbiamo finito il nostro discorso, la nostra conversazione. Vi salutiamo calorosamente, visto le temperature di questi giorni. Al prossimo mercoledì. Arrivederci. Alle 19, sì. Arrivederci di nuovo.